Luca! Grazie! Mi ha chiamato adesso, è 90, gliel'ho detto, ma lui la vuole da 80. Io te 80 non ce l'ho misurata. Adesso è 90 larghe, se infatti neanche a me mi c'entra nello sgabuzzino dove la dovevo mettere, perché c'ho un altro mobile lì, se no la stavo mettendo lì, ma non ci sta, e poi mi sporge troppo, capito? E poi non mi apriva lo sportello nel cassetto del mobile, ed è per quello, capito? Voleva più piccola. Grazie, io non ho messo, se poi qualcuno se la comprerà. A me non serve, io ne ho due a casa, vabbè, non ho i ripiani come quella. Però ne ho due, uno me l'avevo regalata. Nuova color notte, una signora. L'altra volta ce l'ho regalata. Vabbè, regalata, ma ho fatto un favore e in cambio mi è stata data quella. Ma a me ho provato uno sgabuzzino, non mi ci sta perché ci ho messo quel mobile che mi avevo comprato e c'avevo un terrazzo. E poi mi ho messo una messolina e lì ci ho messo i baracchini. Ci ho messo quelli che adopero e il computer. E poi me lo adopero dentro lì, nello sgabuzzino. E quello lì non ci sta. Ma di freddi oggi, bubù, intendi, crocro. Cosa? Cosa hai detto lui? Ho detto, ma di freddi oggi. Ma con il tiverro ha fatto un freddo così, ma freddo me. Basta su, mi faccio i mani ghiacciati. E poi ho detto, la stanno smontando tutto, questi delle giostre. Perché non ne sono, con questo tempo cosa sono? Se ne sono andenti, ero grigio. E se stamattina mi ho preso un sacchetto di pellet perché l'avevo terminato per adoperarla questi due o tre giorni e l'ho accesa, la si fa ben freddo, vedi. Peccato, la voleva da 80, ma gli ho detto che 90 di larghezza, non ci sta neanche da lui, mi ha detto. Per forza una da 80 ne è. Ma da 80 mi sanno finito, la B minore chissà 90. Se a me ci stava me l'avrei tenuta, ma non mi ci sta, capito? E poi a me, a polimero salone, non mi piace, è più forte di me, non mi ci trovo, non mi ci trovo più bene qua, in cucina. Ieri il computer me l'ha acceso, però in cucina. Ma cos'è lo sgabuzzino mi piace, ma da vedere. Lo si può modificare, grazie, no. E cosa, la scrivania? No, non fa. Ui, deve accorciare un ripiano, manno. No. E poi il ripiano di sotto, no, che si rovina. E se no l'avrei fatto, sarà stata la cosa più semplice. Ma non andava bene. Buonasera. Vabbè, pazienza, grazie. Mi farina accesa la stufa lo stesso. Ma è freddo, è freddo. C'è freddo. Aspetta che me ne ritiro questi ferri che stavo prendendo il metro dalla cassettina. Fai, sono qua. Ciao, Lu. Giuseppe. Aspettando. Giuseppe, mi senti? Forte e chiaro. Io ti sentivo un po' attratto, adesso ti sento benissimo. Ehi, così mi, guardando questo tempo, oh Lu, tra un po', anzi, noi mi sa che stasera facciamo l'albero. Mi sa che anche io mi inizio a dobbare, là. Mi sa a mettere le palle nell'albero. Ehi, Alu, mi pare che il calendario stia dicendo qualche bugia, noi non siamo a maggio. Allora, il discorso è che anche se siamo a maggio, però con le temperature che ha fatto i giorni prima, insomma, stava bene, c'era caldo, potevi stare anche a maniche corte, ma così di botto, così fulmina la gente, l'essere umano lo fulmina. Lo so, ma tu renditi conto, Lu, che prima, ad aprile, a Pasquetta si faceva il bagno. Mi ricordo io, anni addietro, a Pasquetta, bene o male, un bagno riuscivamo a farcene. Ma va un tempo e ci ambenti proprio male. Lo so, già me ne sono abbizzato. Già me ne sono abbizzato. Vabbè, dai. No, oggi proprio ieri già, non era male, dai, non si stava male, perché noi eravamo giù in piazza, c'era la festa, avevano detto che c'era freddo, però qua è arrivata la mezzanotte, la verità, siccome eravamo seduti lì nel coso, si sentiva il freschetto, allora ce ne siamo rientrati. Va bene, però ieri era molto più abbordabile di oggi, Ollu. Perché anche noi ieri siamo usciti, mi sono fatto delle commissioni anche a piedi e ti dico che stavo sudando, sudando perché stavo camminando, però si stava bene. Ma oggi proprio è di brutto, oggi è calata di brutto. Beh, lo so Giuseppe, forse mia, abbiamo acceso la stufa, grazie a tutti. C'è freddo, freddo, freddo. E noi lo stesso qui a casa, riscaldamento acceso e si tira avanti. E cosa deve fare? Col freddo dentro casa non puoi stare. E siamo usciti un'oretta stamattina, ma lui ha detto faccia così, questo vento te ne mangia la testa. E mi c'è anche Gufo, vediamo un po' se ti ascolta. Grazie, lo senti a Giuseppe? Dimmi! Sei Giuseppe, lo senti? Disturbato l'ho sentito. Giuseppe, senti? Ciao, grazie. Sì, in mezzo al QRM già ti tiro fuori. Capisco quello che dici. Anche io ti sento tutto disturbato. Il tempo oggi è brutto, Ti sento tutto a trattini. Riesci a cambiare postazione, a vedere se da qui riesco a tirarti fuori meglio. E tu, Lu, mi senti da qui? Ma se l'ho smontato tutto, è valida, avanti, crocro. Lu, avete cambiato canale? Cosa, Giuseppe? Ho detto se avete cambiato canale, qua non si sente più niente. No, io che cosa cambi canale, siamo sempre qua. Grazie, lo senti Giuseppe adesso? Un attimo che sto facendo cosa, no, non lo sento, lo sentivo malissimo tutto a tratti, oggi c'è tempo brutto. L'hai copiato Giuseppe? Sì, adesso sì. E tu adesso ho cambiato postazione, Lu, sono nell'altra camera, adesso mi senti bene, mi senti peggio? No, ti ascolto meglio Giuseppe, dai, meglio, ti ascolto lo stesso, dai, un po' disturbato ma ti sento. A non avere un antennino, mannaggia, piccolo, me l'avrei messo in terrazzo. Ma guarda che te lo puoi anche autocostruire, Giuseppe. Se ti metti, vai su YouTube e te la costruisci, non c'è il diploma, no? Allora bisogna che mi impegni. Se no basta dirlo a Luca Flipper, te la fa costruire da lui. Allora, adesso ti sento male, vediamo un po'. Oggi è un po' così la giornata. Ma comunque anche il tempo, Giuseppe, il vento è un casino. Ti sento a tratti anch'io, strano, perché tu qui arrivi sempre bene. Ma la giornata, Giuseppe, capito? Già è vero. Io là invece, quando abitavo là, usavo l'antenna che avevo sul tetto, casa era una bomba. E te credo, l'antenna è un'altra cuba. L'attaccavo, avevo il riduttore, no, Ollu. Attaccavo il PLC dai cosi, dal baracchino e l'attaccavo qua, al portatile. E trasmettevi anche? Sì, ebbene pure. E non si brucia? No, mai avuto problemi. Io mai avuto problemi. Allora sei stato fortunato, Giuseppe. Sì? Perché la frequenza è tutt'altra, capito? Sicuramente... Cioè, sicuramente. L'avresti bruciato perché... con quell'antenna lì alle stazionarie. Ho capito. Se mi ricordo quando l'attaccavo c'era Gian Maria che mi sentiva una bomba da Sacro Cuore al latte dolce, dice arrivi una bomba. Ti credo, ci mancherebbe. Penso, io so che non va bene con l'antenna lì, quella era l'antenna per la 27, se le attacchi queste frequenze rischi di bruciare la radio. Ho capito. E questi che su che frequenze vanno, Lu? Questa è 446. Ah, ho capito. Quindi bisogna che cerchi questa frequenza su YouTube. UHF. Frequenza UHF, andare. E niente, bisogna che mi organizzi perché così almeno sento qualcuno. Perché di baracchini ce li ho tutti quanti conservati, non ne voglio manco sentir parlare. Allora io da qua l'ho staccato lo stesso, non ce l'ho più. Oh, non c'è amore, tu. A me piace, e tu già mi conosci come sono fatto io. Se entro, entro per farmi una chiacchierata. Se per bisticciare me ne sto tranquillo davanti alla televisione. Ah, quello senza ombra di dubbio, Giuseppe. Io farei la stessa cosa, guarda. Ma infatti, ma che cosa c'è di più bello? Vuoi passare 10 minuti, una mezz'oretta? Facendo chiacchierata. Te la fai tranquillo, cazzo, già siamo pieni di problemi dalla testa ai piedi, figurati se mi metto alla radio a crearmi altri problemi. Ma non esiste, avevo speso un sacco di soldi in baracchini, in antenne, in cose, e poi per tenere la maggior parte del tempo sono rimasti spenti miei. Ma comunque moto ogni tanto accendili, capito? Sì, ho sempre quello là, il 48, ti ricordi? Giuseppe, adesso ti sto perdendo, mi senti? Sì, io ti sento bene. Ho detto che ho sempre quelle 48, l'Alan 48. La 48? Quello che mi avevi dato, ti ricordi? Ah, quello nero? Eia, quello ce l'avevo a casa e poi adesso quello è nel camper. Ma va che è una bomba. Io non ti sento più, Giuseppe, prima ti sentivo benissimo. Stavo dicendo, lui, quelle 48 che mi avevi dato tu, prima ce l'avevo a casa e uscivo con quello. E adesso ce l'ho nel camper. Ah, ho capito, quello digitale, giusto? A frequenzimetro. Bravo, proprio quello lì. È veramente un bell'apparecchio. È positivo, dai. Il computer sta andando bene? Tutto al 100 per il momento. E sono macchine, lui. Lo so, Giuseppe, purtroppo è una cosa usata. Se la compri nuova, ma poi non è detto, È nuova, magari ha una garanzia, la paghi di più, quello sì. Lo so, sono macchine, purtroppo sì. Per come l'ho messo a posto io, penso non dovrebbe darti problemi. Poi, con il tempo, insomma, quando... Anche la ventola vuole... Cioè, deve essere pulita, no? E che poi... si sporca e non lavora bene, capito? Sì, certo, come tutte le cose, ci vuole la sua manutenzione e bisogna stargli dietro, se no non risolvi niente. Però già sta andando tutto bene. Quel baracchino, ti ripeto, è una meraviglia. È una meraviglia perché funziona bene. E va sopra i 40, se ti ricordi. Sì, che mi ricordo, io a voglia di lusso, meglio così, dai, meglio così. Vediamo un po', Graziano, piegato ti sei. Eia, ti sto piegato. Allora io per sentire a Giuseppe Graziano mi devo mettere in una posizione, al secondo come mi giro dentro la camera, lo sento benissimo. Se mi metto frontale verso la piazza non lo sento più. Cosa hai detto che mi hanno stavano dicendo cosa qua, dimmi? Ho detto che qua in camera, secondo come mi metto, lo sento bene a Giuseppe. Se giro a radio verso la piazza non lo sento più. No, io sono sempre nel solito posto. Ho allungato anche il braccio, sono andato anche vicino al lavandino lì e lo sentivo tutto tratteggiato proprio tra, così, a raffe. Quando va a vedere il pubblico, la frequenza è ancora più fea di quando non va a vedere il pubblico. Allora Giuseppe, l'altro giorno, sarà un mese fa circa, non era via dove abitavi prima. Mi senti Giuseppe? Non mi sente più. No. Sei passato nella via dove abitavi. Comunque grazie, non la vuole questa cosa. No, quel tipo lì no, perché c'ha il posto obbligato 82 centimetri, quella è 90 di larghezza. E come da me, non mi c'entra lo stanzino, c'entra la pressione sopra il mobile, però poi non mi apre né lo sportello di sotto né il cassetto, capito? E non ci sta, se mi cadia me l'aveva detta, ma non ci sta. Vabbè, io non sapevo manco dove metterla. Poi Marina ce l'ha, quella di Marina è molto molto più grande, non c'è il ripiani come la tua, però è molto più grande. È col vetro in cristallo, infatti un vetro del ripiano me l'ho tenuto io, il vetro nero di quello temperato, bello, ce l'ho io, e lo usavo sopra quella scrivania. E quello lì me lo tengo, è bello come vetro. Puoi anche attaccarla al muro, no? Fargli una cornice come sfondo. È perché è nero, nero, nero, di quanto è nero ti rispecchia. E poi è tutto molato in giro, capi? Quello me lo tengo, è sempre bello. E col caburumbe di bo questo tipo di prezzo. Non posso immaginare. Vabbè, già, tanto. Grazie, io l'ho messa, poi se trovi qualcuno che la vuole già se la compra. Avrà. E che cosa lui? Se lo disegni, ne avevo un'altra, tutta di cristallo, tutta di vetro, solo i ferri erano cromati, ed era molto grande, un bel spazio mi prendeva, c'aveva tre ripiani, e tutto il bancone, tutto il cristallo nero. E la ribucciata a Portobello, la di Matteo si era ribucciata, nuova, 70 euro mi avevano dato, però l'avevo fatta più di 100 euro quella, da Conforama l'avevo presa, ma era bella, ma qui era troppo male. Oh Lu, mi senti? Adesso sì, forte e chiaro Giuseppe. Oh, adesso sono qui in terrazzo. Adesso ti sento, Giuseppe, ma sei all'aperto. Adesso mi sono spostato in terrazzo. Fuori al freddo. No, io ce l'ho chiuso grazie al terrazzo. Sono in terrazzo, però ce l'ha vetrata. Ah, come io, ce l'ha vetrata, ma non ci vado mai lì, solo in estate, quando tiro la zanzariera. Perché c'è, adesso c'è troppo freddo, ma è un frigorifero. Non è che la temperatura sia delle migliori, da dentro. Ascolta, ma che cosa ha messo Luca in vendita, perché mi sono perso qualcosa? Sulle misure da domandare. Anche questo le misure ti ha chiesto. Ma a me, grazie. Luca! No, ti chiama, no, mi interessa, mi ha scritto, mi interessa la scrivania con la sedia. Questo tu adesso l'hai pubblicato su regalo a Sassa e provincia, cristalliera in legno Massello. Adesso l'hai messa. Eia, sì. E quello è adesso. Ma quando tu metti un oggetto tipo un mobile, le misure, capito? E sennò come fanno uno? Cosa? Quando metti una cosa, tipo, vedi, abbiamo messo a vendere la scrivania, devi scrivere anche le misure, anche della cristalliera, devi mettere le misure, sennò come fa la gente? Sapere quanto è, se non ci sta. Come minimo bisogna mettere le misure, Lu, se no uno come fa a sapere se nel muro di casa gli ci sta? Va bene, quando mi contatta glielo dico, per la cristalliera mi ha contattato una signora, per 5 cm di altezza non gli ci stava nella cantinetta. Dunque non si era pigliata perché era più alta, capito? E pure io la gitto, basta levarne i piedi che sono 8 cm tra piedi e il legno a sotto. E ci sta, e mi ha detto no, senza piedi non gli piace. E pazienza allora, che cosa gli piace? Aspetta che sto battendo anche quella. Audarai, io te l'ho mandata. Però è meglio che metti le misure, me le dai le misure che le scrivo? Aspetta che non me la ricordo, la prendo la misura della cristalliera e te la do. O dei cosa la vuoi, della scrivania? La cristalliera. Adesso te le do, che non me la metto. L'ho misurata anche da poco, mi ha chiamato una. Aspetta. Io ho messo 3,50. È così, vabbè. Oh Giuseppe, domani tu sei al lavoro di là, no? Sì, sì, affermativo. Di chi mi si muore a vino, d'estate non lo so com'è, ma d'inverno lì ti secca, eh. Già lo so, lì fa freddo. E d'estate c'è caldo. Chiava, che te. Vabbè. Molti anni ci lavori lì, Giuseppe? Ehi, gira gira, siamo 35. Cavolo, ma là c'era, se non mi ricordo male, lì lavoravo anche, aspetta, Paderas. Sì, la buon'anima. Infatti è morto, lo suocero di mio cugino, eh. Positivo, sì. Bravissimo, Tore, casa, ci siamo passati degli anni, casa, due risate, si vaziami. Hai visto? Un attimo, vabbè, per un affè, per un'influenza, ma anche la moglie è morta. Sì, anche da poco, sarà, un 7-8 mesi, penso. All'incirca, sì, povera, cioè, ma lei qual è la malattia del tumore? Ma anche Tore aveva quella storia del sangue, stava sempre lottando con questa mezzo leucemia, quanto avevo capito io. Casino, è proprio vero, la vita è siamo di passaggio, è inutile. Ma io quello che dico sempre lui è questo, oggi è andata, domani oggi è andata, domani non si sa. infatti così, e teniamo a campare, e cosa vuoi fare, d'altronde come hai detto giustamente tu, qua si è di passaggio, viviamola intensamente giorno dopo giorno. Esatto, giusto, giorno dopo giorno, diventi un casino. E come ho detto io poco fa, senza incazzarsi, se no da voi è peggio. No, cosa trovate qua, Giuseppe? Incazzarsi, ui. È meglio che si incazzano loro. No, ui, ma non ne vale manco la pena, mi. Non ti preoccupare. Ma infatti. Sassari, bomba. Un via padre tirato. Ma, e cosa è successo? Dimmi, allora, aspetta un attimino, grazie. Sassa, la rama è bomba, mio padre Zidano per un dimenticato. Oh, sarà magari di qualche studente, di qualche... Adesso te la scrivo. Oh, grazie, e che cosa ci devi scrivere, qualche ricetta? No, aspetta che gli mando, glielo scrivo. Vabbè dai, poi nel caso, no, fregatene, poi nel caso gli dici tu le misure, io l'ho messa e vediamo, dai, che te frega. Vabbè, adesso te la scrivo, dai. Allora, altezza, larghezza, cioè, larghezza. Tu scrivi l'altezza con i piedi, ovvio, no? E poi la larghezza, senza piedi. Io vabbè, c'ho mal di testa. Per carità. Ma non ti preoccupare, lui, è il tempo. A me mi fa mal di testa al vento, invece. No, a me no, io sono da... Vabbè, ieri... non è che... Ho bevuto qualche bicchiere di troppo, perché non è che bevo molto. Questo vino mi ha... Diciamo, mi ha cancalato, eh. Sì, già va bene, a puttidini. Una volta ogni tanto già ci sta. E allora? L'importante è divertirsi, Lu. Passarla sempre in divertimento. Da poi, se un bicchiere in più, già va bene lo stesso. Non ha mai fatto male a nessuno. Ma infatti. Uia, cioè, mi sta scoppiando la testa. Ah va? Mi attento 10 minuti, Lu. Che devo cambiare una cosa qua in cucina. Comunque già vedete, la radio è accesa, eh? Sì, a Giuseppe, fai con comodo, tranquillo, non c'è problema. Luca, ti ho mandato le misure, larghezza, cioè larghezza 2,15 m di altezza, altezza 2,10 m, profondità 46 cm, il piano di su. Sì, vabbè, 40 sì, no. Ehi, aspetta. Ehi. Ma sei sicuro che la larghezza è di 5 cm di differenza ci sono? Tra larghezza e altezza? Sì, sarà misurata. Di altezza, cioè l'altezza è 2,10 e di lunghezza è 2,15, poi profondità 46. Quello non mi ha chiamato, gli hai dato il numero. E allora ti chiama da quel numero, ti chiamerà, se gli interessa ti chiamerà. E gli ha scritto te l'ha. Che cosa? Ma le misure, non volevi le misure. Eia, aspetta un attimo. Eia. Cucù, cucù. Non c'è cucù, finito, uscito. Chi è, chi è? Bubu. Bubu. Romme, romme. Mica ti ho dato una scrivania se ti interessa, su WhatsApp. Già l'ho vista. Già l'ho vista e già lo sai cosa le faccio, non ce l'ho io, ce l'ho è grande pure, per cui magari no, non mi interessa, capito, grazie, ma a qualcuno interesserà, già l'hai vista, la, quella che ho io è grande, c'è tutto, per cui cosa le fai? Ehi, ti posi la poltroncina, hai visto, è pure una gadria. Ne ho due di quelle sedie, certo. Ne ho due, guarda, anche qua ce l'ho, nella scrivania. Ne ho due, anzi tre, ne ho una più piccola pure. Due grandi e una più piccola. C'ho tutto, grazie. Ah, vero. Vabbè, se interessa qualcuno gliela fai vedere a tuo nipote, cosa adesso gliela fai vedere, se interessa qualcuno. Ho capito, cosa hai detto adesso? Se interessa qualcuno gliela fai vedere a qualcuno che conosci tu, a tuo nipote, non so, a qualcuno. Se gli interessa ve la fai vedere. Ah, senz'altro. Senz'altro che la faccio vedere. Sì. Anzi, tre grandi, io mi stavo confondendo perché qua in questa cameretta ne ho due di quelle sedie. Sì, e una ne ho in camera mia, e due ne ho in camera mia, una grande e una piccola in camera mia. Ti puoi immaginare, quello già non mi manca, E poi la scrivania mia già l'hai vista, già te l'avevo mandato, c'è tutta l'attrezzatura. Ehi, a Puglia. Sì, infatti ce l'ho e non mi serve. Ma se capita qualcuno, senz'altro ti riferirò. Ehi, vabbè, si capiteggia. Mi hanno chiamato una sola, però non c'è lo spazio, è che da me l'ho misurata. Riposiglio, ma non ci sta, se ce la metto non mi apre il cassetto di quel mobile che ci ho messo e anche lo sportello, non andava, e poi è a pressione, e se no non l'aveva venduta, non vi stazzi, se no andava benissimo quella, ma non ci sta mica il mobile, oramai l'ho messo lì e rimane lì. Lo lascio dentro lì quel mucchio, se no in terrazza mi si rovina. Si rovinassi in terrazza, è un grido, col tempo si rovinassi, e lascialo dove cazzo, finché non riesci a portarla via, capito? Già la vendo, ma ce va di una ansura, solo che è obbligato lui per lo spazio, ne sta cercando una da 80 cm. Poi si lagatti, l'ha detto, questa è 90 di larghezza, e metto non ci sta, lui ne vuole una da 80 perché c'ha 82 di vuoto dove la deve mettere, è obbligato anche lui a metterla. Però vuole da 80, e da 80, boh, non lo so si finisce da 80. Però va fatto un giro. E tu c'hai la via, e per la vai 80. No, e allora, e se tagli Rubiano, devi tagli a Rubiano 18, burro, no. Dammi una giornata ad arruinarla, e così la davo. Si lavori, se non la smonto e la bongoglioso, smontata. Sì, allora riesci a darla, qualcuno interesserà. Ehi, qualcuno l'ho messa in vari posti, la fotografia, qualcuno avrà chiamato. Perché quella non è grande, dunque dovrebbe andare di più perché non prende molto spazio. Solo io ho lo spazio obbligato e non mandare. E beh, se c'ho lo spazio obbligato come fai? No, la mia già si sa bene, è tutto, avevo preso le misure, all'angolo c'è la televisione, a fianco della televisione a sinistra c'è il computer con un mobiletto e sulla destra c'ho i baracchini, capito? E sulla mia ci sono anche tre alimentatori. Capito? Puoi immaginare, quindi so sì, poi già l'hai visto quanti ce ne sono? Già l'ho vista, beh, ma tu lo spazio lì ce l'hai visto, io lo spazio ce l'ho obbligato, non lo sgabuzzino. Ehi, vabbè, ma io mi ho messo una mensola lì adesso, allora va, me ne devo punire un'altra. Di mensola più lunga di quella lì, quando metto l'altra andrà troppo bene, va benissimo, capito? Perché ho lasciato lo spazio sotto per infilarci la spinapolvere della stufa, quella spinapolvere che avevo preso grande e già ci sta bene sotto. Adesso però devo mettere un'altra mensola, già ce l'ho in garage. Mi ha di fatta e la di fatta qua. Se no, va, faccio tutto uno innanzi all'altra, la roba c'è buona la scrivania. Ma dimmi una cosa, ma non è quella scrivania dove ci avevi messo i galassi, no? No, quella lì me l'avevo venduta, quella era di cristallo la scrivania, quella era di vetro, quella nera. Cioè, non è di chi me l'ha venduta, era troppo manna chissà. No, pensavo a quella io, capito? Perché non mi ricordo com'era, su per giù, no, su per giù, ecco, ma sarà quella che aveva la Galassia, capito? Invece è un'altra questa, ho capito. No, mi avevo venduto quella là perché era troppo grande e mi avevo comprato questa. Però a me i saloni non mi piace, non venuta chi fa, a rimanere i saloni, non mi piace, io mi ha fatto di più. In cucina, e nello sgabuzzino già va bene lo stesso. Ho capito. E qualcuno ci affaccerà senz'altro, va. Che altro c'è, Luca? Luca c'era, ma già sentato, esce vedi. Luca, ha sentato ti sì. No, sono qua, ciao Giovanni, buonasera. No. Giovanni, siamo a dicembre, giusto? O gennaio? Ciao Lu, buonasera, cosa hai detto? Ho detto, siamo a dicembre o siamo a gennaio? E chi ne capisce più di questo tempo? Gatto, il mese di maggio dovrebbe essere, dovrebbe bruciare il sole, gatto. Invece, amici, oggi c'è freddo, Sì, oggi c'è freddo, per cui... Però il super non è acceso, dentro casa non ce n'è freddo. Se dovessi aumentare il freddo, me l'accendo la super, capito? Per cui non ne sento ancora freddo, ecco. Ma è una giornata brutta, proprio brutta. Sono sceso in magazzino stamattina, ho visto che c'era molto vento. Però è accalmato un po' il vento, stamattina era più forte. Ho voglia, stamattina era molto più forte. No, noi l'abbiamo accesa che così è freddo. Oggi mi dica anche a di maggio. Le mani poco fa erano ghiacciatissime. Adesso non ho male, già sono a posto. Vabbè. Infatti. Questa se ne sta scoppiando. Riprendi Grazia. Ehi, hai rotto l'accesa perché la zuffa? Sì, Maria l'ha accesa, per farci la doccia, so, tra un po' che adesso. Mi sono sempre 10, ancora 10 minuti e poi vado, dai. Dovrebbe andare, in fine di a parte la luce. E allora? Ah, vabbè. No, io l'ho accesa lo stesso la stufa. Chi si intende agli affreddo, boh? E allora la cazzissa. Grazie, se non mi lavo Maria non mi vuole a casa sua. Ehi, ma a chi cosa hai fatto? Ma sei brutto, travagliato. Evidentemente. Mi piace fresco, fresco, fresco, vero Lu? Grazie, non c'entra niente. A chi ti sono travagliato non ti lavi. Non ti convinto. Purtroppo io ieri sono uscito, ieri ci siamo lavati lo stesso, ma se la fai ogni giorno va bene, mica te ne fai 10 al giorno. Bisogna sciacquarti, grazie. E ti devi già un po' tutto, no? Io a lavarmi mi lavavo quando travagliavo, giugnati. Ma adesso no, mica mi ammaggio di lavare niente, so cosa è prebusato, mica fai studio o qualche cosa. Quando me la faccio tre volte alla settimana viene a fare i buchi. Allora facciamo ogni giorno, capito? Poi se mi sento male mi lavo a pezzi, quello sì, non ce la fa a lavare. Ma Merluzzo vuole, capito, vuole pulito. Quello c'è il bidet per quello, visto che avevi un di cosa c'entra? Cosa c'entra? Vero Gian Mario? È fatta apposta. Ma noi che uno va a lavarsi i ghibi si va a apposta la doccia. Non ho capito, dabbè quello freddo che fai oggi, attrezzati di scaldino in bagno. Oh, c'è la stufa accesa, ma con i chibi da voi. No, io in inverno quando entravo in bagno lo scaldino lo mettevo 10 minuti, poi entravo ed era un caldo, si stava troppo bene, e se non ne bigli un maranno, una brocca polmonite ne bigli, se ti pugli, perché in bagno c'è sempre freddo. Lo so, vabbè. Ma una volta che esci da sotto la doccia, ti metti la capatoio, ti asciughi bene, poi vai vicino alla stufa e ti asciughi bene, bene, bene, bene, ti vesti e sei a posto. No, c'è problema. Grazie, prenditi la doccia per avere freddo. Devi fare la doccia matta con matta. No, prima si voleva fare la vasca da bagno, giocava a me, ai pirati anche, a cercare il tesoro. Va, basta la bagna, non viene più. Più che mi sallevano, mi puoi giugare. Noi abbiamo la vasca da bagno e il piatto doccia. Allora vedi, puoi andare a caccia del tesoro, la pieni, metti la schiuma, fai tutta la schiuma e fai la caccia del tesoro. Prima ci tuffa lei e poi ti tuffi tu. Intendi tu. E il tesoro poi c'è solo anche pelo tra la vasca. Non si sa mai, magari in coccia con un pesce gatto. Oh yeah! Ma lo distacchi almeno la corrente, la distacchi quando entri nel bagno, la vasca da bagno. E allora? Stavani me la vedendo su internet di tutti i pugni pesce gatto. Non lo sapevo che c'aveva due mandibole, i denti che si vedono all'esterno, quelli che c'ha quando apre la bocca, Luca, quelli sono per mantenere la presa, solo per mantenere la presa, non per mangiare. Poi più giù dentro la bocca, vicino alla gola, va un'altra dentiera, c'ha due mandibole, quella di dentro mangia, e chi da mantiene la preda ferma con le primi denti e diciamo gli sta entrato lo braccio, l'hanno dovuto aprire la bocca e subescio un pezzo di d'ora a mano, un 5 centimetri lungo mezzo metro e un pezzo di ferro scatolato che ne stava mangiando la mano Luca. Però i denti di fuori gli mantenevano il braccio, non riuscivano a aprirgli la bocca. Beh, ti credo. E tu lo sapevi che il pesce gatto c'ha due mandibole. Quella esterna, i denti che si vedono, quella è per trattenere, chissà dentiera gli pari una serra, ma. Poi all'interno della bocca, in prossimità della gola, c'è un'altra dentiera che mangia, hai compreso? Vabbè, tu basta punirvi la mano in bocca. E quella era grande, mi rimbescegato un pesce gatto, va via burro di pappo, di ogni pappo, puzzino, cioè, ve la piani un bel sopra la vacca, no? Ore e ore chivi e noi è morto, non si sciucchittava nemmeno, però la presa non la mollava, capito? Beh, te credo, vabbè, niente di Giovanni, due dentiere c'ha. Ehi, due bocche allora c'ha, grazie. Paro Ficci, capito, tu la mattina la stai dritto, magna, così è grazie. Ehi, c'ha una mandibola all'interno della bocca, in prossimità della gola. Con quella mandibola dei denti, mastica e mangia, e quella che si vede quando apre la bocca. Dice l'enorme quel pesce gatto, quello è per trattenere la presa, è in goldi, no? E tu apre e ti sicuri via Drenta, e Drenta intanto magna, compreso. Ehi, sembrato intelligente, bruppio, E invece hai visto lo squalo che sono fatti? Apre la bocca, si ricordi il trio. Da voi a cifraggio meglio a Trento. No, chi c'è l'onfi per non perdere la preda. Con i denti di davanti la mantieni, hai compreso, la strigni. E all'interno, mano a mano chiedo di ingoti. Ma se ne già lo magna, no, ti magna. Eia. Dentro le maniere per ciò. Noi ne abbiamo solo una mandibola, due mandibola abbiamo, così e lui. Chissà quando sono riusciti a aprire la bocca, hanno bucato lo braccio, va via la mano, tutta mazzigata per la via. A chi lo braccio non era mai niente? La mano, il braccio era trattenuto dai denti di davanti, però la mano dentro, arrivi all'altra mandibola e veniva già a mangiare la mano, compreso. Ah, ho capito. Quando sono riuscito a aprirgli la bocca con questo scatolato che ci metto di Daura, in due, l'ha aperto la bocca e gli dà a segni vita con l'altro braccio. E in avvocato sono riuscita a bucargli il braccio. Ma mi era male tutta mazzigata. Allora grido, che si sente, che puzza. Quelli di dentro è un'altra mandibola, cioè con i denti sopra e dentro e sotto. Una bocca proprio più piccola, ma loro i denti erano ben affilati. E invece quelli di davanti, quei denti che si vedono, chissà bocca manna, quelli li usa per stringere e mantenere la preda, capito? Ogni tanto molla in godi, no? Come ti godi 30 giammagnetti e tu? Intelligente Isa, è nato intelligente Isa. La razza d'animale, a te l'immagini, quello è il pesce gatto. Ehi. Non mi ricordo di averlo visto il pesce gatto, non mi ricordo come è fatto, capito? Oh, che feo! Allora, la struttura della testa è enorme, anche quelli piccolini, quelli più piccoli. La struttura dove c'è la testa è più grossa del corpo, e quasi andando in finigenesi. Oh, lungo è! Di tante misure ce ne sono, chi abbia il bigliato che pensa a portare una mano che su Marco Trento, già era per domani, sarà stato un metro minimo di lunghezza, ma era vedo grosso, quanto il busto di una persona era grosso, Luca era per domani. Di un abbezzo di bocca. Poi gliel'hanno spalancata, no? Quando quando sono riusciti a levargli nel braccio. La cosa di Bush, sbagli alla bocca una gazzarella, la l'alluvio di una gazzarella, una cosa del genere. Ho capito. Lo vai tu e fidati. Ehi, pigliano con i mani. Certo. Ma qui io non sappia chi fa due sentieri. Quella esterna, quella che vedi proprio ad annaccia la bocca, quelli trattengono e all'interno magna, hai compreso? Beh, certo. Ma secondo me quello più pericoloso è lo squalo. Lo squalo va di... si notte si ingodi giusto. Una musichetta è tratta, te ne tratta canto è. E infatti cammini in gudenni, la vedo rappassati con un'altra trazzata. Ti mangi a pezzi. Già lo so, per carità, pucci. Poi ci sono gli squali, quelli enormi, che sono giganti, non so come si chiamano quelli squali. Chi si bisogna enormi, apri la bocca a 5 ordini come un biscottino. Cioè ci sono anche squali enormi. Beh certo. Ma lo squalo, ho detto Gio Maria Anzura, ha un buccone di magna, è vero Gio Maria? Vedi se tante misure di quelle lì, ma i più grossi sono per... certo, sono maledetti, E poi quando va a più becca, non è che poi fuggino, certo, un di abbassa le denti, certo, e ci razza che tu vedi, è la visione, certo. Hai visto quando becca l'animale, certo, è peggio di come ti dice, come cavolo si chiama, che vive nei fiumi enormi. Come ti chiama lì, sì? Dei fiumi enormi. Sì, che sono i fiumi. Lullo, va, mi fuggire un uomo. La macomba, quei serpenti, chi si disingode in trio? Oh, che dato, accidenti, come ti caspi, si chiamano. Catta. Chi sono i fiumi quando passano vecchiamo, mi lascia a pallanchi, catta. Beh, non è puttana lì che ha pirato un uomo, cazzo. Giovanni. Ah? Cazzo, c'è coccodrilli sicuramente, i piragna. Che coccodrillo? Beh, lo coccodrillo, è lascia animale. Sono i piragna, ma se ne varia. Lo piragna ti mangia a morsetti, ma a morsetti ti divora in 3 secondi, ti divora. E non hai visto quel programma in Africa, quando attraversano gli gnu, le zebre, capita, più di uno se ne mangiano e in 3 secondi vedi lo scheletro. Anche se non ne uno solo, no. Sono migliaia e migliaia, così che quando a Zanda uno viene subito l'astre, così che glielo credo di volare subito. Ma duro che ci sia, per carità, vuoi mangiare un cristiano? A sapi buoni, ma cosci d'astri? Una trivellatrice che ci vale in bocca. Non l'ho visto al televisore, da poco anche, un documentario nell'Africa. In 3 secondi si hanno sbranato, uno gnu, l'altro è da ridici due, alza, e la metà di 30 mi dai pure, se mi dai di 30 la gli ha mangiato, se si danno tirato a 30. Ma cosa fa il buccio? Un attimo, viene solo il gorri galleggenti, lo vuoi non vedere più. Ieri mi ho visto questo qua, il leone, ha attaccato un coccodrillo, però era piccolo. In attirato vola la leva e si ha mangiato un coccodrillo, un leone. Ma si racciappa il coccodrillo, non lo molla, No, si è lasciato un 3 metri il coccodrillo. A chi ve la rilascia mi manni, a quando sono arrivati va andati fin di rubiglioro. Oh, li manni, lo leone se ce l'aveva tirato innanzi all'acciutto, se ce l'hai tre pulciato, ma la bocca l'ha guantato, e se ce l'ha pulciato dal traginone ben lontano, prima che gli siano i coccodrilli grandi. Sì, sono maledetti. Hai visto quando mi sono tutti questi animali attraversarmi il fiume che aspetta. Catta, che diventa, ragazzi, è già un mulla di domani. Poi la foca, capito? La foca se lo butta sotto. Dai, che pure allora comincia a masticare. Ehi, già lo so, già. Animali, ma ho visto un documentario. Che tu li hai, questi 4-5 leoni erano. L'ONU si è rimasto in mezzo all'Eva, in un fiume. L'hanno attaccato in greffa. Appesi l'hanno fatto 30 al fiume, l'hanno squartato. E cosa fanno i buchi? Dopo se ci l'hanno buttato fuori a pezzo. Ciao Bacchi, buonasera. Ciao Bacchi, adesso ti sento, però sei basso, un bel basso. Accanto ti intendo. Sì, a chi so vorrei tu casa con l'antennino. Ma anche la voce tua, se non alzi, ti sento molto basso. Sai come fa Graziano? Chi pare priente, la zicchino, ribale che ti fa tanto lo baracchino. Così deve fare tu, Bacchi. Mi trovi la ora, cazzo, che trovi di ora, voglia. Anche lui c'è proprietà. Capito, Graziano? È pigliato una mentina, boh, non pigliare una mentina, Luca, diglielo pure tu. Non sei da solo, dai. Vabbè, sono un po' di... Sono un po' la gola che a me... Di testa, raffreddore, nel voi. Poi con questo tempo, guarda. Oia. Spero che inizi un po' di caldo, almeno vanno via un po' di acciacchi. Ciao Luca, buonasera. Ci andiamo abbastanza, mal di gola, raffreddore, mucco al nastro. Se Graziano li vuoi un poco, Graziano li vuoi un poco, te la ricco. No, tieni, te lo conto, anzi, mi scendi in campagna e metti in campagna che fa concime. Almeno cresce prima la verdura, vero Giammari? Infatti bisogna lasciarli in mezzo ai cavoli, almeno pigliare gli altri, il raffreddore. Oh yeah, andava bene, meno, riprendi Graziano, riprendi. E non fare il modello. Oggi adatto sei a lavorare. Vabbè, mica ti controllo, mica. Oh, grazie, ascolta, c'è un'altra persona che vuole la scrivania con la sedia e mi ha scritto se potevo aspettare, gli ho dato il tuo numero, ho dato che ti chiama, se puoi aspettare qualche giorno che si deve prendere il computer e se la compra lui. Adesso gliela chiamarmi, digli va bene, già i nostri si buchino. Poi il primo che arriva gliela dai, che te ne frega. Va bene, come ti buchi. O il primo o l'ultimo, cazzo mi chiama, si bevi là, si non la giada già i nomi, basta che arrivano i gaslucci, mi sia. Vabbè, ci sto rimettendomi, ma è per farla pure, non so dove metterla, a pulirla in garage, cosa la buona in garage, la bisogna rovineggia. Ma non piace, la giù buccia, poi si sta rimettendo, no, sono problemi miei. In base che l'ho comprata di più mia, anche insieme alla sedia. Lo so, purtroppo, se te la vuoi fare fuori, mi vale un pregio a farti lavorare, se no, state in casa. No, non c'ho posto, cosa me la dico? È un uomo, il cargata, digli a Marina se fa cambio. La Marina fa cambio, se ne aggiungi 100.000 euro, così bene fa. Ah, Marina. No. Ah, altro di no, ma 200.000, 300, 400, 500, 10.000, 1.000 milioni di euro. Sì. Se vuoi dire 1 milione di euro, insomma, cioè, 8.000 euro, insomma, ti verrà dai. Pulimo per i rassi. Quanti metri quadri è, Ollu? Giomari. Quanti metri quadri è? Allora, è 88 senza i terrazzi. E la tua Grazia quant'è? Lo dica ai minori, 62 metri quadri, senza il terrazzo che lo chiuso io, fai 60 zincola, una cosa del genere. E io ho la camera letto, il salone, con lo zino e quel pina, volendo due bagni. E c'è dove il Lucca. E allora quella grande sì, che so. Sì. 88, va bene 88. E quanto è quella di mia nipote qua sotto, dove abito io? Aspetta, le popolo più di morte. E qua hanno fatto due, la camera a letto, il salone molto grande, ma manna viro. E questa cameretta è piccola. Capito? Così che sono una, due, tre, l'andito e la cucina con quel terrazzo. Beh, e qui c'è il magazzino. Grazia, l'abbiamo già diviso il soggiorno e ho fatto tre stanze da letto, il soggiornino, la cucina abitabile e poi due bagni. E come ho fatto io a mia nipote, gliel'ho tramezzato il salone che era enorme e abbiamo ricavato un'altra camera, perché prima erano di più, capito? E c'ha tre camere da letto, diciamo. Doppio servizio con tutto il corridoio, la cucina e il terrazzo. E poi c'ha le altre due terrazze come ce li hai tu. È uguale alla tua, quella di mia nipote. Ah, e c'ha il doppio servizio, c'ha due bagni come te, uguale alla tua. Cosa vuoi fare? Ma già va bene per voi, tanto siete tu e tua moglie, cosa c'è? Una figlia c'hai a casa adesso, boh. No, ne ho due, già sono femmine, c'hanno la camera sua. Ma se avrei avuto un'altra camera, avrei fatto altre cose. Quella per due bagni è già molto, molto comodo, Due bagni, cazzo, ci vogliono, cazzo. Quando occupato uno almeno l'altro è libero, cazzo. Invece tu ne hai uno solo, Grazia. Mi sa che la batteria, Grazia. Io bagno ne uno solo, mentre voi ne avete due. È molto comodo, Per chi vuole si giovani. Per noi infatti questa casa, ormai siamo soli, è abbastanza grande per cui, lì, per noi, vogliamo. Però quando la famiglia è un po' grandetta, una camera in più fa comodo. Ha voglia, fa comodissimo. Sì, che magari l'altro è occupato, c'è l'altro libero, vabbè, per loro che sono in due va più che bene. Se il bagno occupato non lo trova mai. Sì, da voi no, qua può capitare, siccome io ho anche i miei nipoti qua, ce ne sono tre, e certe volte loro ce l'hanno occupato, lo vengono qua e certe volte i due fanno la fila, i due femmine, certo. Giovanni, quando trovi il bagno occupato, che devi entrare urgente, purtroppo che hai su conto. Se ne è andata la batteria, adesso attacco l'altro, se no questo lo lascio caricare, se no ogni tanto si spegne. Attaccala, non ce l'hai l'altro, cazzo, bisogna avere... Metti l'altro, cazzo, che non hai problema di batteria, no? Riprendi che adesso lo attacco. Vediamo un po' se c'è ancora Bacchisio, che l'abbiamo lasciato in parcheggio. Bacchisio... è sceso giù adesso, sta merendando lui. Magari era in campagna oggi, sicuramente sarà stanco. Sta fuori merenda, merendero, come dice lui. Sarà in campagna. Siccome oggi ce l'ha freddo, magari è arrivato prima a casa, capito? No, in campagna oggi senz'altro si stavano non tanto bene, però già c'è l'appoggio lui in campagna, per cui non è che stava lavorando, no? E lui se va e ci siede, accende la stufa e sta bene ugualmente, ammazza la giornata così. Quasi delusore, Giovanni, allucinante. Ma io ci servirò dopo domani. Oh, già abbiamo finito tutto da noi. È tutto bello, sembra Piazza Italia al mio adesso. Ho capito, sembra? Ho detto, abbiamo pulito tutto da me, così che sembra Piazza Italia, bello pulito. Aspetta, Giovanni, 2 secondi, adesso la faccio, mi la sento, vado a farmi cosa, quella detta doccia, dai, a dopo. Ehi, vai, ok, grazie. Ehi, me lo sto attaccando adesso. Poc'anzi, mi è arrivato poc'anzi, ha preso un altro messaggio, lo faccio box, con un aggeggio sul tavolo, cazzo. Come si permette questi, a mandare queste cose, cazzo? Con un aggeggio sul tavolo, è cosa? Ho un aggeggio sparato. No, io ti avevo mandato la scrivania e boh. E questo come ha fatto a mandare una cosa del genere a me? Chetta. Ho messo la pistola, l'ho messo sul tavolo, boh. Ma di pare, chetta, che deve rimandare queste cose a me. Una pistola, sarà cacca e macco. Avevano rimbagliato, boh. Oh, mi sembra che c'è ancora, aspetta, ma penso che l'abbia cancellato, non mi ricordo, adesso vediamo un po', adesso lo guardo, vediamo un po', se c'è lo cancello subito, perché a me mi piace queste cose. Guarda a vedere, e che te l'ha mandato, non lo so. Non lo so, catta, non è che tu un bel di cosa, e fammi da deburmi su tipo. E cane! E non te ne so più, l'ho girato subito. Ah, chiede a Luca come ci fa, a vedere chi è. Giovanni, e beh! Non ce l'ho più, no, evidentemente l'ho cancellato. E presa pure lei, chatta. E avere queste cose, ho messo il telefonino, mi dà fastidio, capito? Infatti l'ho cancellato, stavo dicendo cosa? E te l'ho cancellato, adesso mi sono ricordato. Si sapeva che te l'ha mandato. Non ho guardato niente la scrittura, capito? So che c'era scritto cosa, ma ho visto la fotografia, questo che stava parlando, infatti l'ho cancellato subito perché c'era lei dormita e si sentiva troppo, capito? L'ho cancellato subito. Ma stava scrivendo o parlando? Parlando. Ah. Parlando stava. Parlando. Non si connesce a casa, non l'avrà inteso tu. Però se c'è la fotografia sua, la fotografia dell'aggeggio e dicendo cose, capito? Ma io l'ho cancellato subito perché si era lei addormentata, capito? E si sentiva troppo. Non sei riuscito a vedere Gaia dalla voce, se stava parlando. Ma su passa il volto. Ah! Ma su passa il volto. Ma ti ho compreso, no? Su passa il volto, vuoto, cavo si chiama, niente. Boh, non ti capisco. Aspetta, sto guardando bene. E sei andato. Aspetta, sto guardando bene. Ehi, guarda. Ho capito, dicendo. Ehi. E cosa è successo, Giovanni? Uno, ho sentito il telefono fischiare, siccome fischia quando arriva qualche messaggio, no? E allora l'ho aperto e si è presentato questo tipo con la pistola sul tavolo e dicendo cosa, però siccome si sentì il volume a tutto volume, per non svegliare lì l'ho cancellato subito, l'ho spento subito, adesso è scomparso quel pezzo, capito? Allora fa qualche pubblicità, ma sicuro si era su WhatsApp. Allora grazie, se te lo sto dicendo, qualche pubblicità forse era, ma io l'ho cancellato subito, meno male. Sì, ma su WhatsApp pubblicità non ce n'è, tu eri su Facebook, così è Luca, pubblicità su WhatsApp non ce n'è. sta stato sul fermo, se non so che ti dica, ma ero mezzo dormito, io buro, ero mezzo dormito, io buro, ma ho visto la fotografia con Sara Geggio e l'ho spento subito, capito? E adesso è scomparso, Luca, su WhatsApp non ce n'è di pubblicità così. Non so cosa gli sia arrivato, se io, Ah, vabbè, no, vale, anche su WhatsApp qualche pubblicità gli avevo ogni tanto, perché c'era quello delle lampadine, dei faretti a letti, quella è pubblicità, no, che la mettono anche su WhatsApp, così pubblicitari, anche quella dei cerotti c'era, dei cerotti per i piedi, che porta sollievo. No, balle, già la buona di su WhatsApp, la pubblicità, eia. Forse è la pubblicità, capito? Ma l'altro fastidio perché era proprio dormito pure, capito? Così che io, come l'ho aperto, ho visto questa roba e l'ho spento subito perché stava parlando. Infatti lei si è svegliata, se l'ha sentito parlare un po'. Boh. Sì. Già l'ho cancellata, meno male. Boh. L'ho cancellato, l'ho spento ed è sparito. Boh. Oh no, allora ho ragione io, non ce n'è davvero. Su WhatsApp pubblicità non ce n'è no. E perché tu non eri su WhatsApp, Gianmari, tu magari hai acceso, hai guardato della, su Facebook, e poi essere così pure, boh. Però io ripeto, come stavo parlando, perché il volume era alto e così, che per non svegliare ho spento subito il telefono, capito? Ed è boh, dopo l'ho riacceso e non c'era più. No, ma quello c'era poco fa, le pistole c'erano su Facebook poco fa, le ho viste anche io, la Kimberly vera di marca, e c'era questo parlando, e anche un'altra pistola, non mi ricordo che pistola. Quelli sono pubblicità, fanno le pubblicità per le pistole, fucile, carabine, capito? E l'ho visto anche io poco fa, quelle pubblicità. Ma ci sei più grata su Istanbul? Allora se quello, quello lì, pubblicità, capito? Però, cazzo. Già l'ho spento subito, io meno male. Infatti, prima ho pensato che qualcuno aveva mandato, invece no, deve essere pubblicità che hanno mandato così, boh. Pubblicità, quella che mettono, però non è su WhatsApp, non eri su WhatsApp. O eri su Instagram, se ce l'hai, io non ce l'ho. Perché ho Facebook e boh. C'ho Amazon, però lì se non premo io non esco. Non esce, invece è anche su Facebook, io me lo guardo spesso, e poco fa c'erano quelle armerie facendo pubblicità alle pistole, ce ne sono bene, ce ne sono ad aria compressa, e questo periodo poi ne stanno mettendo di più perché per via che adesso se tu entrano in casa e spari a casa di lui, andrà su casa tua, non ti fai né nulla, c'è questa legge adesso, e allora un bel gente sta comprando la pistola, stanno prendendo il porto d'acqua. È un cannone, oddio, mi ordino un cannone, come apro la porta sparo, va bene. Eia, oramai un bel gente se la sta comprando, con questa legge che ha fatto mettere Salvini, oramai tutti armati, dunque quando entri in qualche casa domanda permesso. E pare che entra in casa mia, a me io non posso ammazzare, devo ammazzarlo, non così. Ehi, prima ammazzato ammazzo, cazzo, se è possibile. Vabbè. ma è anche giusto quella legge qui, si prende legittima difesa, gatta, gatta. È giusta quella legge, gatta, ne può ammazzare un altro, può ammazzare un coso, e invece un padrone lo può ammazzare, boh, non lo so chi io. Sì, d'altronde da voi sei trento casa sua, non ha più compreso, cosa deve aggiustare, che mi ammazzi a prima, partirà lui. E si è tre uno in casa, e no che io lo tiro subito. Noi che se ti mi posso tirare, da voi rispondono. E se ti pensi che da cosa rispondi? Tu quello si è in casa a Trento, casa. E io lo tiro, da voi vai a giocare. O no? Ma, però sapete di che. Ma succedono queste cose, baccaretto, però le sono succedute parecchie, e per cui a ben un punto si arriva sto ammazzando la tua casa tua, boh, non so chi è. E non l'hai visto quello che hanno arrestato quel coreano a Ghidomo in un negozio, l'ha morto a colpi di sgabello, ha pigliato lo sgabello dai Ghibia, chi non ha pagato il conto della roba si ha pigliato la carta di credito che ci aveva, era viuta. Tre volte l'ha passata io, e non ve la nerina, ha pigliato lo sgabello e l'ha morta a colpi di sgabello. E l'hanno ripigliato lì delle camere, a vaglia l'hanno arrestato. Un coreano, a te l'immaginici, papà, due strazze ha morto una bazzona. Va bene, l'ha pigliato pure di là dalla gascia, un po' da buoni capari, torna a fare un altro colpo. E intanto io ti ho fatto di benna che è morto, l'hai compreso, miserabile, ma dimmi tu, boh, è sempre di fuori a me, sempre cane di fuori a so a farmi. Sì, la scusa ma che c'è di pura, me ne so italiani, e io via per carità. La gente si mette per mettere i cani, boh, ammazza un cristiano, ammazza un animale, boh, a che punto? Vabbè, va. Fa aprire! A chi? Ancora non è tempo di cariaggio con un buco, Ma a chi? Me! Aspetta un attimo. Ma a chi? Buttanela! Dove sei? In campagna, ti sento. Mi senti? Sto facendo male. Non mi sento male. I cani sono, sento un casino. Sono. Dove? Ma l'ho copiato. Io vedo che sono come tuo. Ah, ma tu hai suonato. Aspetta che scendo, non è che abbia l'ascensore. Ciao Mari. Un attimo, grazie, sto facendo cosa. Eia. Ellu, oggi mi devi ghiacciarti, Ellu. E bello, già lavato, dici. È occupato, mi stavo alzando e me l'hanno occupato. Ancora non esci. Eia, aspetta un attimo, che ti passo una persona. Eiu. Luca. Eia. Marco, più bene. Porta il chiasso. E nella piazza sono. Pure io, terrazzo. Dove sei tu? Terrazzo. In piazza. Ho detto in terrazzo, non in piazza. In terrazzo, in ciabatte. Non ti vedo. Mi sei liberato il bagno, a frappi. Dove sono? Tu sei Giammari. Luca. Grazie! Luca! Ma... Grazie! Sì, dimmi! Che stai combinando? Ah! La stai combinando? Niente, era lì, mi è giunto un cuscio di rimbagno, a raccio di palla ci sono entrato. Aspetta che chiama a Bacchisio. Un attimo, aspetta. Dimmi, grazie! Buono! Ho dormito questo giovane. Ma il mio Graziano ha dormito. Mari! Che? Ha perso ti sei, ti stava chiamando Bacchisio. Ah, lo sento a Bacchisio, no? Bacchi! Se lo senti voi io, Bacchi, se lo riprendi, mia Gio Maria! Ehi, grazie, non lo sento la Gio Maria, non l'ho sentito. Gio Maria! Ehi, dimmi, cazzo, sono qua, E chi non mi sente a me? Boh, mi sembra strano. Perché sono con l'antennino, dentro casa. Ehi, ma dovrei arrivare anche con l'antennino, dovrei arrivare anche senza antennino, oppure dovrei arrivare a casa tua, Bacchi? Aspetta che mi sposto. A te immagina che... Bacchi, prima non ti sentivo io. Grazie, bene lo senti tu, Bacchi? Guarda adesso che mi sono spostato. Ecco, adesso sei Bacchisio, ecco, prima non eri Bacchisio. Ah, visto, mi chiamo da letto, sono la finestra di fronte a casa tua adesso. Adesso sì, ecco, adesso sei a fondo scala, te lo credi. Va bene adesso, va bene, grazie. E dimmi. Io non dico che cosa, anzi ho deciso a cucciacca piccolino, dica che cosa, no? Se eri fa vedere con Bacchisio, cosa ti devo dire? Luca, mi pare che è andato a farsi la doccia. Boh, oggi mi sono entrato 15 volte, minimo, oggi, boh. Allora hai mangiato cosa vola oggi a pranzo? Oh, gli occhi di patate e... un salamino, con l'insalata, non avevo gana. Allora sono gli occhi di patate che ti ha fatto quell'effetto. Adesso guarda stamani, può darsi che quella marmellata alle pesche. Hai te, la marmellata gli piace, ma chi? Beh, forse è sempre in bagno, chissà che marmellata era, chissà. La marmellata la senti fai, l'hai sbagliato. E allora, io sai cosa avere in mezzo? Beh, grazie! Uia! Sergio Maria, che gli da marmellata gli ha dato un coso, come si chiamava? Un Mondadori, a Poeto Falcone. E che gli ha dato i pantaloni, che si era trovato cagato. Può darsi pure. Vero, grazie! Oh, questa è marmellata fatta in casa! Se non c'è né conservante né nulla, fatta solo di pesche. E le pesche a me mi fanno i gurri. E tu a chi, sapendo che ti fanno correre, perché mangi quella marmellata? A chi no, che la mangio solo io, non ne mangia nessun altro, ma non guardatemi la mangio romate, state in bagno dentro romate. Allora c'è che lamentare. Avvio, allora ti devi lamentare. Gatta, è sempre occupato da te che il tuo bagno, gatta. Se chi deve entrare in bagno si tu sempre. E fino a uno solo bagno. No, ma io entro mazzaro chizzo. All'incirca oramai sono con l'orario, quando mi viene l'attacco. Capito? Non è che. A quando se ne pesa niente, ne sono con gli attracco di entrare in bagno. Ah, zitta, grazie, io mi sto contenti, gioisci. Ciao Gio Maria, ciao Graziano, a dopo. Ciao Bacchi, ci sentiamo allora, vai, buon proseguimento. Ok, ciao Bacchi, Gio, a domani, se coincido, a più tardi se entri. Va bene, è chi sa ancora. Va bene, a dopo, va. Vediamo poi se c'è Luca. Mia, adesso ho finito, dai. Asciugati bene, non prende aria, va bene, c'è calma adesso, c'è la stufa accesa, mettiti vicino alla stufa, che ti riscalda bene. Già, ma già asciuttato mi so, fatto, butto un pigiama, pulito, e adesso sono dentro, sotto le coperte. Oggi la giornata è fredda, permessi. Sta facendo l'umidità, sento un po' di umidità, però non è acceso oggi, Perlomeno oggi non è acceso, eventualmente che c'è più freschetto, già c'ho la stufetta elettrica, piccolina, me la metto vicino ai piedi e mi scalda, gatto. Però adesso non la accendo più su pappello. Sono già una settimana e più che non accendo, perché freddo veramente non ce n'è. Lo so, infatti avevo fino a 15 di giugno senza accenderla. Grazie, guarda che mi ha scritto questa Chiara per la, per la scrivania gli ho mandato il tuo numero. Sono in tanti che la vogliono, vediamo un po', il primo che arriva gliela dai. Ehi, ehi, grazie. Aspetta un attimo, 2 minuti mi hai fatto paura. No, però si è sentito quello bello, gatto, boh, non si fa sentire più, no, gatto. Sei più zaffanato, Cosa, Gio Marì? Non sentire più in frequenza amico nostro. Ma il bello? Eia! Sei effendi di dirà, Gio Marì, mudu, effendi di dirà che leva. Ma non sarà girandosi, no, quello lì. Chissà cos'è che sta combinando tutto il giorno grande, boh. Ho innamorato con qualcuno. Sicuramente sì, allora, lui, visto che lui è bello. Per carità, gatto. Lo dico io, sempre inventando, gatto. Sempre inventando, sa, boh. Gio Marì, piazza Edu. Infatti, piazza Edu. Mentre da quando ha fatto i dollari non si vuole più cercato, e non ti cerca, non ti cerca, però ogni tanto ti salta qualche cosa, allora ti chiama. Allora, e la sua si è fatto il biggio. Ho sempre maniere, ho sempre arrossenti, ma non penso io, quando mai sta sempre mangiando? Tanto di avere la pazza di voi farò. Aspetta, tu vuoi si miserello, c'ha sempre mangiare e poco mangia, gatta. Ma le cose che ci ha detto niente dietro. Ha cantato a piena il suo sacchetto, il suo sacco. La sua uva, Gio Marì, si è fatto il biggio. Caro femma. Abbiamo detto per tutto il sappicito. Gianni, basta pure a Edo, la gara. Prima o poi basta sì. A noi la stessa basta, ma tu Gianni basta. Per carità. E inutile. Adesso c'ha i dollari per cui non ti cerca, lo devi cercare tu. Già lo so, Gio Marì, ormai lo conosco bruciato a Luca. Un attimo, Luca, mi aspetto un attimo, mi stanno chiamando. Grazie, no, ti hanno chiamato per la scrivania. Cosa, Lu? Ti ha chiamato per caso una tipa o un tipo, boh, per la scrivania adesso, no? No, non mi ha chiamato nessuno, c'ho sul tavolo il telefono, non ne ho chiamate. Vabbè, comunque ti chiameranno, l'hanno chiesto già in tre. Non mi chiameranno. Luca, ma ci sei, Luca? Grazie, dimmi. Ho detto, chiameranno, non mi hanno chiamato, a parte quello di stasera. Cosa sei combinando? Ciao, Mari. Grazie, comunque qualcuno ti chiamerà. Io ho detto ho scritto di chiamare a quel numero lì, al numero tuo. Se mi chiamano a Soghinoghi. No, parlava, mi aveva chiamato quello di poco fa, il bu. Ma non sono stasera, no, se ne sono andati. Tutti andati. Aspetta un attimo, grazie, che c'è un amico che non riesce a regolare lo scaldabagno. Cazzo via. Eia. Graziano, mi dici le misure del... L'altra ancora che la vuole, le misure della... 90 era così, della scrivania. Sì, 90 larghezza, Profondità mi sembra che avevo detto 52, così. No, per la cristalliera, grazie, Marcello, sto Marcello, aspetta. Dimmi le misure, vai su WhatsApp, perché sennò io sono su Messenger adesso, dimmi le misure. Ma la cristalliera, 2,15 larghezza e altezza 2,10, profondità 46. Piano, la larghezza quanto? 2,10? 2,10 altezza 2,15, no, 2,10 di altezza, 2,15 lunghezza. Profondità? Cosa? La profondità quant'è? 47 avevo detto, mi sembra, è una cosa del genere. Molto l'avevi pagata con la cristalliera? Un bel quasi 3.000 euro, perché è fatta manualmente. Allora, 2,15 larghezza, altezza 2,10, profondità 46. Quella è fatta non ce ne sono altre, me l'ha fatta a mano il falegname. È tutta in massello. Ma te l'ha fatta Giulio quella? Cosa me l'ha fatta? Santona, dice che è muto, dice che era godiduto, che ci aveva la falegnameria di fronte alla chiesa in via Grazia Deletta, dove c'è quel bar, lì sotto. Oh, c'è le case di Canada, da. Qui c'è la casa di mamma. Tutti i mobili li ho presi, la cucina questa non so se me l'ha fatta lui, su misura, è giunto, si è pigliato le misure e mi ha fatto la cucina. Tutto fatto a mano, e io andavo a vedere il falegnameria, a vedere a cosa era arrivato, se mi li raffendi, capito, se ci stava lavorando. Tutto fatto a mano, il tavolo che me l'ho venduto perché era fisso, era troppo grande. Me l'ho venduto, anche le sedie insieme al tavolo l'ho venduto. E l'ho venduto alla signora qua vicino, il tavolo, le sedie, 300 euro, la banca, se aveva abbigliato, ricadria, va, non me la metto, tanto mi aveva dato. Tutto fatto in legno, massello. E il divano, quello lì, fatto a mano, tutto intarsiato, quello l'avevo preso... Oh, via San Farino dal signor Palmas. La bebè Luca ha detto che è grande, la ringrazio. Cos'è, alta o larga? Beh, ha detto che è grande, non sto lì a chiedere se è alta o larga. Pazienza, anche questa signora mi aveva chiamato, era troppo alta. A chi va via la cantinetta e non ci stava di altezza. Pazienza. La Maria chiusa aveva. Boh, non lo so, mi sa che c'è qualcuno che è andato a casa sua, non lo so, grazie. Ma chi giù, ha chiuso. Marino, non si è sentito, Tore, sarà in giro Gurigano, è in bicicletta. Tore Gurigano, è giù il figlio. È arrivato, sì, Macchi. Ehi, piano piano sono arrivato. In giro con i cani, signor cane lo musica già curu. Ehi, ma c'è forse un doso, da golazza. E tu lo dimmi, è quasi che ci uccidi di Zirugani, se no, so, mo sa curu, so. E lo buona curri, e lo quest'aglio lo buona Edo, Rugani. Ma musa allora li buoni a Edo, ma non capirà. Sali lo fai buru curri a Edo, è presa buru. Ma che... come ti cammina? Via ma si si pone a cuffietta per tagliare vento. E allora, ti dori i torri, a curri, a curri ai pedalà, già è avviato. È allenato, capito? È allenato, torri. Ma non ha sentito, mi pare strano però. Io penso che sono di dare stesso a che cosa, che la moglie gli ha già riato le mani. Ho la porta in un guinzaglio e se non vuoi sta preso. E fatti che su che vuoi la padrona di casa. È chiaro. No, invece, oggi, noi a San Capino oggi no, fa caso, grazie. Io non te lo so dire. No, non penso, boh, se no l'avrei saputo. Vado a Pututorra, a piedi. E la bicicletta, in groppa a Rugani. E usciamo a mangiare il cane, uia. Il cane non ce lo mangia. E se avessi Luca ha finito, hai. Dico, io sto cenandomi, grazie. Sta cenando, sta. Marina ha comprato questo riso buono, mi ha detto se non mi piace te lo mangi tu. Ma se non l'hai assaggiato a Caime, ma però è buono, mi. E non è presto per cenare, capita, sono riso 7:30, no? All'ospedale mangiavamo, vabbè, prima di questa, alle 5:30 lì a mangiare. Ecco, la signora va via a fammi, io lo battessi, e poi se ho fame mangio qualcosina stanotte. Ora so quale bella. Allora se c'ha fame lasciala mangiare. Ma la, se tu non è che ti mangia tu, io ceno dopo, no? Approfitti all'amo, eh? Hai sentito, Bacchi? Cosa faccio mangiare da sola poi? Se non avevo fame mangiava da sola. Aspettavamo alle 8. Ma io molte volte se mia moglie c'ha fame, gli dico mangia due, ma non ha più fame, non mangio. E poi più tardi mangio. Secondo cosa c'è? Oppure che non ha giocato, mi posso dentro, ma che tanto. Ma due fette biscottate, la marmellata, le pesche, vero Bacchi? E l'altra sera non ha più grandi, ma neanche mi ho fatto il tè con due fette biscottate, gli ho messo un po' di marmellata e trubacchettaggio. E stavo bene, pure se non mi invasivo, sta di avere una testa, e non deccio da un mezzo di... No, la sera se ti muovi un po' di verdura corta, e basta. Verdura no, ma il tè già me lo faccio molte volte la sera. A chi a curumarano che faceva digiri piano compreso, e dunque mi sento pesante. Allora proprio perché mi devo fare l'insulina, pigliarmi i bacilli, allora mi posso ridere, se no ne potrei fare anche a meno mi molte volte, ma per farmi l'insulina e prendermi le pastiglie, allora mi faccio il tè e due fette biscottate, buh. Pure se lo diabetologo mi ha detto, ma due fette biscottate non so niente, vabbè, ma io di bino ne mangio. A chi già mi rimangio così, ma è l'umazzano, l'umatessi. Oramai di rudere, vado la cultura, latte non ne posso mangiare. E allora solo tè. Sì, sempre ogni tanto cambio la marmellata, quella le ciliegie, e va giù questa le pesche. E sono arrivi da mezzo barattolo, a chi non è che me ne mangia, sai, ne metto un po', e la spalmo sulla fetta biscottata, e la poi se la do a rapporto in frigorifero. E buh, noi, ma, e cosa mangio? Il latte non posso mangiare, e ho provato anche quello... Oh, che pareva, no, a sta ora di nulla, poi ci mette e mi giurude. Ma quello, diciamo così, pareva, che è abbastanza che era quello lì, senza grassie. Ma fa schifo, non l'ho provato, ma chi sei, ma vuol dire, fare un colore di rurato. Non c'è nessun sapore, almeno il tè ci mette il limone e me lo saporisco così. E già è buono il tè, poi il tè già me lo compro di marca, il tè è buono. Poi tanto baciambari bruco, capito, anche quelli che costano di più mi compro, con altri sapori, tanto per provare, no? Se no ti stufi sempre col tè classico, capito? Avanti Luca. Sì, ragazzi, le volevo dire che io bevo quello senza lattosio. Il nome è questo, si chiama Amo essere senza lattosio, pascoli italiani, latte adatta di digeribilità, UHT a lunga conservazione, è buonissimo, e non è EBA come dici tu, e costa €1 la bottiglia. Ma io no, non ne posso più nulla, neanche quello io potrei bere, capito? L'ho provato quello senza grassi, ma non solo uno, 3 o 4 ne ho provato, ma non mi piacciono perché non c'è sapore. No, questo qua è buono, lo prendiamo noi e grazie a Dio, no, a me io sono tranquillo, no? Se mangio quello normale, ora sono fregato. Mia figlia lo stesso si compra quello granaloro, dice che è buono, ma è grasso anche quello. Lo so, la ragazzo non le bevo manco io. Mi piacerebbe bere il latte, quello da Coapla, quello intero, buono, bello grasso, ma purtroppo non lo vuoi subire che mi va di effetto brutto. Invece questo qua è buonissimo, guarda, è un bijou. E qua se mi manca il latte, a me il tè non mi piace, cioè mi piace, ma non... Questo macchevole. Ma io sono costretto a bermelo per forza, pure a me mi ha straccato, mi ha stufato, però mi devo pigliare i bacilli e allora sono costretto a bermi quello, cosa mi vincoleva, no? abbastanza mi vengo giù tra lì, pure ma niente, me le fette biscottate il tequila. No, tanti anni fa già lo bevevo il latte, anzi me l'ho comprato lì vicino al Marsanna, alla macelleria. C'era la Lattaggia, la moglie della buonanima di Luigi Chelo, Bacchigiola anche conosciuta. C'aveva la latteria lì e scendevo dal latte dolce lì a comprare il latte, lo prendeva a boccioni, due boccioni, ogni manzano ne comparavo. Però era il latte del pastore quello. Ma chi ha, te lo ricordi tu? Ma non era per coso, Luigi non lo vendeva il latte, il magazzino sono di Luigi, però il latte lo vendeva quello di Ursino. Caso si chiamava quella latteria di Cimarubio. E a voi me lo ricordo. Abbastanza l'abbiamo comprato latte di Grazia. E il locale era della buonanima di zio Luigi, era sposato con la sorella di mia madre, zio Luigi, la seconda moglie, perché era vedovo lui. E sapevo che la latteria era la sua, e lo so che non era la moglie di zio Luigi quella. Lo so che era in affitto quella lì, e infatti era di Usilo quel latte, neanche formaggi vendeva. Perché scendevo lì con la buonanima di mamma, scendevo con babbo a prendere anche il formaggio. E molte volte andavo da solo a prendere il latte la mattina. Vendeva il latte, la ricotta muschia, la ricotta fresca, il formaggio, tutto la fare che apparteneva al latte ce l'aveva. Lo so, prendevamo la buona, era tutto buono. Poi aveva chiuso, non so perché, e allora papà lo portava da questo tipo di Usilo che passava la Fiat e glielo lasciava la Fiat. Papà lavorava la Fiat allora. E poi papà la sera mi la rigava a casa. Ma se pensate, il genuino era allora. Diciamo così, dal produttore al consumatore, lo passava in via di altre mani. Invece adesso, quando arriva il consumatore, ha fatto dei viaggi. E a voglia, che poi con babbo, col pulmino Fiat 850, ci aveva familiare, andavamo anche a campagna di quel pastore. Di sabato, di domenica, e prendeva il formaggio babbo lì. Ed era nel rettilineo, c'aveva la campagna e il terreno, quello, prima di prendere la salita per salire a Usilo, quello lì rimaneva vicino dove c'era quel pezzo di cosa della miniera, lì, nel rettilineo, sulla destra, c'era la fermata del bus anche lì. E chi c'era oggi, sta di Aghivi, in fondo a tutti, in una danca. Dove facevano le giraglie, dove c'era il frantoio una volta. A oggi Aghivi, vera un viottolo, ma sarà fatto 2 chilometri, e si vedeva la casa in fondo, tutto pianura era lì. Andavamo a casa sua anche, di sabato, di domenica, e comprava la cosa anche lì a casa sua, babbo. Tutto lì c'avevano. Oppure qua giù, c'era il pastore anche qua giù, non so se tu te lo ricordi, dove era il viottolo di Chirpi, c'era il cancello di Chirpi, a fianco c'era il viottolo, poi c'era un altro cancello. E facevi quel viottolo, c'era un chilometro, e c'era il pastore che dava il latte alla latteria di Chirpi. No, in quello non ci sono mai sceso lì. In quella zona lì, mi ricordo io, da ragazzo che andavo all'elementare ancora, ho lavorato nella fabbrica di blocchetti che c'era lì, di De Santis. Invece andavo ancora, me ne andassi a Ivi a travagliare a fare blocchetti. E mi bagava a Barò. E poi me ne andavo al circolo, al bar di Sanna. a giocare a bigliacchino e a bifino. E la cura marinata, vedi, e non passando per i gradini passati, la ringhiera, vecchi tempi, là. Sì, grazie a me. Non so, c'ho la fotografia io con il padre, con San Signor Sanna, la buonanima, sulle scale, c'era la scala a volta si allassa, rialzata. Cari, a voglia che mi lamento, come fosse oggi. Graziano, grazie. Dimmi lui. Sì, adesso mi sto bevendo il fondo del bicchiere di Moscato, buona lì, dossi, ma buono, di Ierzo, Sono, a voglia che ne aggiungi tu, a Ierzo, ne ho caricato fino e andato a consegnare della cantina di Ierzo, in più in quella zona lì ci passavo sempre perché ho fatto il militare anche a Prasazebogu, a Tertenia, e dico quando facevo Tertenia a Prasazebogu ci passavo in mezzo a Ierz, e già lo so, caspita se buono, è buono sì, quella zona la conosco come le mie tacche, Armatax, Tertenia, Muravera, tutta la zona, ci posso andare a occhi chiusi. Beh, questo già è buono, là. Molto buono, un cettino. Questo di quello di normale non ho bevuto oggi. Ma questo qua già tipo abbassa caffè, anche se caffè non è bello. Lo bevo così, che mi piace, è proprio gustoso, buono buono. A 6 euro il litro. Lo so che costa caro, lo sai dove lo vendevano? In Piazza d'Italia, al centro, quella via larga che ci scendi, che ci c'è al corso, come si chiama quella via? Lì vendono Moscato, Marsala, dove ti sto dicendo io, non so se c'è ancora, Babbo, no, se l'ho preso qua, Sacro Cuore. Ma tu l'hai preso in quella cantina della Cantunata? Eia. Già la conosco anche quella cantina, anche il padrone conoscevo. No, io ti sto dicendo, questo è un rivenditore lo stesso di quei vini pregiati. Non ha vino di Trisi, solo roba pregiata vende, roba lona. È un super negozio, ma non so così ancora, dice ancora. E in Piazza d'Italia ti metti al centro e guardi verso giù, verso l'emiciclo, e scendi in quella via lì. Non so, non mi ricordo che via è. Ho capito quello che stai dicendo, mi sa che non c'è più neanche, vabbè, la concezione già non fa male, non so più la ghisi di vino, non so più una santativa, ma poi ne bevo un concettino proprio, giusto per assaggiarlo, oppure mezzo bicchiere mangiando, e mezzo bicchiere bevendo. Vabbè, un bicchiere già non fa male, uno, due, anche ma se stai mangiando già non fa di male. Fa arrivare quando si comincia a mettere la buccioli, vero Bacchi? Fa male anche nelle stesse buccioli, se non gli fa male, fa male. No, il moscato già è buono. Quando è fatto con una cosa, con i piedi, quando è fatto col bastone non serve. Ah Bacchi, allora chi se ne beve, io conosco uno, Mimo se ne beve 2-3 litri al giorno di vino, mi sono 4. Fuma un bel, e ho preso il suo capabocco, ogni santa di così, e ogni santa di, io invece ne bevo un bicchiere, quando lo bevo, se no non ne bevo neanche. Io non ne bevo né un bicchiere niente perché non ne posso bere, mi piace bello perché non... è moscato, no, prima lo prendevo a sai dove, al tempio lo fanno buono. Sì, Moscato di Tempio è un'altra musica. Buono sì anche quello di Tempio, ma lo sai io quanti ne ho bevuto? Quando facevo le consegne del vino e andavo alle cantine a caricare e poi andavo a fare le consegne. E praticamente io li ho assaggiati tutti i vini, sia nel Campidanese sia nella zona sassarese. Tutti, i ghettini mi raggio tutti i lati, perché andavo a fare i carichi e poi andavo a fare le consegne. E ho visto di più e di tutto, qualsiasi vino io l'ho giù vinto. Ne ho bevuto buono e ne ho bevuto cattivo, ma a voglia assaggiare vino, oh yeah! È calpestato Marchisio, non so cosa stava dicendo. Io non sono un grande bevitore, non sono un grande tenitore, però a bocca mia, cioè, questo vino è buono, questo che sto bevendo adesso, questo moscato. Poi quello che prende Marina, questo sempre di Yerzu, buono lo stesso, rosso, buono. Eppure dico, non sono un intenditore, ma per me va bene. Poi ho assaggiato il Cagnolari e non mi piace, fa schifo. Cannonau, è buono, però devi saperlo bene perché è un vino grosso, pesante, però è buono. E che ci vino devi stare attento a chi si conducato in vita e tronca subito l'anchi. E il Cannonau è buonissimo, caspita, e col Caburo, il Cannonau. E io vino ne ho bevuto a Ufa, quando caricavo la cisterna, l'autobotte, sopra, con la manichetta, mi cuccava la cisterna, apriva la bocca, si buonia la faccia, quando ero bilente la cisterna, mi faceva brullo ciampo, Luca. Io ho detto Cagnolari, no Cannonau. Cannonau è buono, dipende dal tipo del Cannonau. Cagnolari. No, non l'ho mai sentita, magari l'ho burubito. Ne ho bevuto parecchio vini, di tutti rimasti, pure vini continentali mio ho bevuto. Allora un periodo me lo ordinavo e mi arrivavano le cassette da continente qua, anche 10 cartoni, ogni cartone c'erano 6 bottiglie, tutti i vini pregiati quando lo bevevo. Anche da poco mi hanno telefonato, dice, gli altri che non ne posso più bere, non ne bisogno più. Un paio di mesi fa mi hanno telefonato, ma non ne voglio più, e cazzo di vino, babbo latta. Io ripeto, non ne abuso, assolutamente. No, tanto a parte che io ho un segnale, tipo se adesso la birra, se ne bevo, guarda, massimo, se ce la faccio anche 2 bottiglie, ma se ce la faccio, se no neanche ci arrivo a una bottiglia molte volte, mi fa mal di testa. No, io l'ho assaggiato, ma un dito mio, infatti ce l'ho in frigorifero, l'ho aperto l'altro giorno, è un vino di proprietà, però è un bel grusso, buono e buono. Ma è grosso, fatta la paletta là di tutti, tienitelo, se no si rirulampi. Per quando cucini qualche cosa, gli ho rimesso il tappo ed è in frigorifero. Quando così, per esempio, la carne alla cacciatora, glielo metto in mezzo e lo consuma così. Qui va, ti ho mandato la foto, guarda il colore che è bello. A me l'hai mandata. E allora, raga, mi sa che Bacchisio è in fase di... merendao, vero Bacchisio? Adesso andiamo a prendere medicine per Luca, adesso il tuo sono le medicine, poi se c'era. E dunque io adesso vi saluto, me ne passo in quelli, prendo le medicine e poi se c'era. Ciao Luca, salutissimi, grazie delle 4 chiacchiere, saluta la signorina, a domani se tutto va bene. Ciao Grazia, buona serata, saluta la signora e buona cena anche per voi. Pochissimo, ascolta Finalino e vai in cuore e vedi. A domani, ciao ciao. Ok, riprendo io, ciao Bacchisio, buona cena, buon tutti, salutoni in casa, a domani se coincide. Ciao, vai lui. Ciao Bacchi, saluto anche a te. Buona cena e buon tutto, da domani, grazie per il saluto, potrà cambiare con la tua 50, dai. A domani, ciao. E mi sa che avanza il burro io, pure io mi devo fare l'insulina, misurarmi. Ciao Maria, ha chiuso, gente l'ha venuta. Non lo so, grazie, non lo so, mi date anch'io, adesso mi cambio, dai, c'è mi cambio. Mi metto le scarpe, mi faccio accompagnare, mi porto il cambio a casa. Dai, ci sentiamo domani, grazie, sotto a Paoletta, anche da parte di Marina, e a domani, ciao. Sì, ciao, saluta anche tu da parte nostra, Marina, buon fine giornata, a domani, ciao ciao. Sì, ciao.